La legge urbanistica approvata 3 anni fa è una legge che ci ha visti contrari, che riteniamo necessario modificare per assicurare effettivamente la riduzione del consumo del suolo. La proroga che viene votata oggi va nella direzione contraria e quindi noi appunto in commissione e in aula voteremo contro convintamente, ma soprattutto chiediamo alla Giunta un cambio di passo su questo tema, così come abbiamo promesso in campagna elettorale intendiamo fare adesso che siamo presenti e determinanti in consiglio regionale. Quindi noi vogliamo cambiare la legge urbanistica. Entro la fine dell'anno, all'inizio del prossimo, questa legge deve cambiare, assicurando, ripeto, il contrasto al consumo di suolo e favorendo le rigenerazioni. Questo è un tema sul quale sin da subito sappiamo e abbiamo sempre saputo che ci sono posizioni diverse all'interno della maggioranza. Su questo, come ad esempio sulle opere, sulle grandi opere, sulla Cispadana, sulla bretella Campo Gagliano Sassuolo, ci sono posizioni diverse che nel voto in aula verranno rispecchiate. Quindi ci sono posizioni diverse sia nella maggioranza che nell'opposizione, però il punto per noi rimane quello che accade. Quello che accade ed è che bisogna cambiare quella legge, così come bisogna cambiare il piano dei trasporti. Oggi verrà votata con un voto che mette insieme Partito Democratico e Forza del Centrodestra, per questo per noi è un problema e quindi chiediamo che le cose cambino da qui ai prossimi mesi. Il fatto che in giunta ci sia una figura però di coraggiosa che ha un ruolo rilevante come Andish Line vi fa sperare in... Assolutamente sì, anche se il procedimento di oggi non ha toccato la giunta ma è tutto del consiglio, quindi la giunta non ha votato nulla, è solo diciamo un passaggio votato dai consiglieri, quindi noi a maggior ragione con la presenza della vicepresidente all'interno di quella che era la discussione per il patto per il clima intendiamo portare le nostre regioni e siamo convinti di riuscire a ottenere quello che non abbiamo ottenuto nella precedente legislatura.